Dagli incontri nascono sempre nuovi stimoli, nuove idee. Ma quando ad incontrarsi sono dei musicisti, ecco che nasce qualcosa di profondamente diverso. Qualcosa che rimane e aggiunge una nuova nota sul pentagramma. L'esperienza dei magnifici e di destini incrociati in un nuovo programma, nel quale, attraverso i loro incontri, i grandi della musica danno vita a sorprendenti connessioni per creare nuovi mondi musicali. Radio 24 presenta I Magnifici Destini, un programma di Giacomo Zito. Quanti ne vedrai di giocatori tristi che non hanno vinto mai ed hanno appeso le scarpe a qualche tipo di muro e adesso ridono dentro al bar e sono innamorati da 10 anni con una donna che non hanno amato mai. Chissà quanti ne hai veduti, chissà quanti ne vedrai. Chissà quante volte l'avrete sentita questa canzone. Del resto ha ormai 30 anni ed è anche stata la colonna sonora di un film famoso, Marrakesh Express, di Gabriele Salvatores. Chissà quante volte vi sarete ritrovati in queste parole. Chissà quante volte vi sarete immedesimati in Nino, il giovane protagonista dei versi che accompagnano la melodia. In fondo, quella che vive Nino è una scena piuttosto tipica nel nostro paese. Un ragazzino gioca a calcio su un campo spelacchiato in mezzo ai palazzi di periferia, magari con le scarpe che gli stanno un po' larghe, quelle coi tacchetti mezzi rotti che gli ha lasciato in eredità suo fratello più grande. Nino insegue un pallone e un sogno, che magari è quello di fare il calciatore, ma magari invece è solo quello di diventare grande. Il fremito, la paura di sbagliare un calcio di rigore, è una bella metafora della vita, degli esami che vanno affrontati e superati, delle sfide vinte e anche delle occasioni perse. E che cosa c'è di meglio di una poesia o di una canzone per dispiegare una metafora così potente? Certo, per farlo occorre essere dei bravi cantautori. Ma all'inizio degli anni Ottanta, quando questa canzone è stata scritta, il suo autore era già considerato uno dei più grandi cantastorie d'Italia. Lui è il principe. Francesco De Gregori. Con la sua musica e le sue parole, De Gregori ha attraversato gli ultimi 4 decenni di storia italiana, parlando di grandi temi così come di piccoli dettagli, raccontando la realtà che lo circondava e mettendoci dentro, inevitabilmente, anche un bel po' di se stesso. Perché non si può certo essere cantautori se non si è un po' spudorati, non si può arrivare al cuore del pubblico se non si è disposti a raccontarsi, a regalare qualcosa di se stessi. E questo vale anche per un uomo che non ha mai amato mettersi troppo in mostra. Non sono geloso della mia immagine, della mia faccia. E poi sto qui, quindi... Cioè, voglio dire, è stato faticoso, certe cose sono faticose da fare. Alla fine però è stato anche divertente. La riluttanza di De Gregori nel metterci la faccia è sempre stata compensata dalla sua voglia di esprimersi attraverso le canzoni, di mettere in musica le proprie idee e i propri stati d'animo. Essere artisti, dopo tutto, significa donare un pezzetto di sé ogni volta che si ha a che fare con un uditorio. E questo discorso vale anche quando l'uditorio, di fatto, è composto per la maggior parte da manichini. Roma, via Garibaldi, quartiere di Trastevere. Trastevere, ovvero al di là del Tevere, un luogo storicamente e fisicamente separato dal cuore della città, dai palazzi del potere, dalle chiese, dai luoghi di ritrovo lussuosi. È proprio qui che nel 1960 nasce il Folk Studio, come ritrovo di cantanti che altrimenti non saprebbero dove andare. Dopo una certa ora, e dopo avere alzato un certo numero di volte il gomito in qualche ruspante trattoria del quartiere, non è più il caso di manifestare il proprio entusiasmo canoro nei ristoranti ormai pronti ad abbassare la serranda, e nemmeno a casa di qualche tiratardi, i cui vicini il mattino seguente dovranno certamente alzarsi all'alba per andare a lavorare. È così che alcuni amici prendono in affitto il corridoio dello studio di uno scultore e lo trasformano nel Folk Studio, uno dei luoghi più vivi della capitale tra gli anni 60 e 70. Un luogo in cui, proprio a cavallo tra i due decenni, fa capolino anche un 18enne Francesco De Gregori. In casa di Francesco la musica non è una tradizione che si tramanda di padre in figlio. Mamma insegnante di lettere, papà dirigente bibliotecario. Sono i libri, a quanto pare, ad essere la costante di famiglia e infatti avranno un peso tutt'altro che indifferente nella formazione del giovane cantautore. La musica in casa a De Gregori si tramanda di fratello in fratello. È Luigi, più grande di 7 anni, a far sentire a Francesco prima Elvis e Chuck Berry, poi Bob Dylan, John Baez e Woody Guthrie, iniziandolo alla cosiddetta canzone di protesta, così in voga in quegli anni agitati. Ed è Luigi, ancora una volta, a portarlo per primo al Folk Studio di Via Garibaldi. A parlarcene è la cantautrice Giovanna Marini. Lui veniva con Antonello Venditti e con tanti altri. C'è una folta partecipazione di ragazzi. E proprio qui, in questa specie di cantina lunga e stretta che sa di muffa, sopra un palco di legno verniciato di rosso, che Francesco De Gregori fa il suo primo magnifico incontro col destino. Quello con Antonello Venditti. Come lui romano, come lui appassionato di musica. De Gregori e Venditti, insieme ad altri giovani di belle speranze, animano le domeniche pomeriggio del Folk Studio. Non è che di gente ce ne sia poi molta a sentirli, tant'è che Cesaroni, il direttore del locale, escogita un piano. Fa comprare a Cinecittà un bel po' di manichini da accomodare sulle sedie in sala. Col buio non ci si accorgerà che sono finti, no? E la gente, se vede altra gente, entra più volentieri nel locale. Francesco De Gregori e Antonello Venditti, accompagnati da Giorgio Locascio ed Ernesto Bassignano. Quattro amici inseparabili che condividono l'amore per le canzoni. Quattro ragazzi con la chitarra e un pianoforte sulla spalla. Gli esami sono vicini e tu sei troppo lontana dalla mia stanza. Tuo padre sembra Dante e tuo fratello Ariosto. Stasera al solito posto, la luna sembra strana, sarà che non ti vedo. I ragazzi del Folk Studio sono amici che sostengono e alimentano la passione comune per le parole, per le poesie messe in musica, unendovi da principio anche una discreta dose di impegno politico. D'altronde quelli sono gli anni della nascita di Lotta Continua, del Manifesto e poi di Piazza Fontana e della morte accidentale di un anarchico, come la chiamerà Dario Fo. Ma nella palestra del Folk Studio non c'è spazio solo per la canzone impegnata. Quei ragazzi pieni di speranze sapranno fare molto di più. A parlarcene è proprio uno di loro, Ernesto Bassignano. Noi cercavamo davvero di unire, abbiamo fatto un tentativo molto importante, credo, di unire, di smetterla con la canzone di lotta proprio da battaglia, da piazza, e far nascere una canzone d'autore civile. Nel repertorio di Francesco non c'è solo il Bob Dylan degli inizi, ma ci sono anche i Goofy, De André, Nanni Svampa. De Gregori e gli altri, lentamente, inesorabilmente, iniziano a prendere sempre più piede e a conquistare più pubblico. Al Folk Studio non suonano più solo la domenica pomeriggio, ma anche la sera, svariati giorni alla settimana. Si mettono in tasca 3.000 lire a testa. Sono felici, ci prendono sempre più gusto e i giornali romani iniziano a parlare di loro. Caterina Bueno, nota cantante folk, lo sceglie per accompagnarla nella sua tournée del 1971. Lui un giorno saprà ricompensarla. Francesco va in tour con una folk singer, bazzica i festival dell'Unità e scrive rime già molto dense di contenuti e significato, nonostante la sua giovanissima età. Del resto, l'ambiente in cui è cresciuto, umanamente e musicalmente, si distacca con decisione dalla prassi canora italiana, quella che vede passare più o meno tutti gli aspiranti musicisti dalle assi del palcoscenico di Sanremo, così diverso da quello un po' folcloristico del Folk Studio. A parte che sono stato segnato quando ero ragazzo dal suicidio di Tenco, che avvenne al Festival di Sanremo e che secondo me lascia un'ombra scura su questo festival. E poi ho sempre detto che non rappresenta la musica italiana vera, infatti se tu guardi poi quelli che sono oggi in Italia, le persone che fanno musica, che la musica che viene ascoltata, la musica che viene comprata, che la musica che viene... Non sono per la maggior parte sovrapponibili a quelli che vanno a Sanremo. Forse il percorso di Francesco è diverso da quelli più tradizionali, ma ciò non significa che non gli interessi fare della sua passione un vero e proprio mestiere, anzi tutto il contrario. Ormai De Gregori sa che la sua musica piace. La gente al Folk Studio fa la fila per sentire le sue canzoni e non c'è nemmeno più bisogno di riempire la platea con le controfigure prese a Cinecittà. Francesco sa che fare un disco a questo punto è la cosa più naturale da fare. E come lui lo sa anche il suo amico e compare di serenate, Antonello Venditti. Giovanna Marini ne conosce giusto uno, quello che fa al caso loro. Si chiama Vincenzo Micocci e ha una passione per i giovani cantautori. Gli ho telefonato e ho detto: guarda che arrivano due, Antonello Venditti e De Gregori. De Gregori mi ha chiesto di venire con noi, a me pare che sia roba più adatta a te. E lui gli fece immediatamente un contratto. In realtà De Gregori e Venditti non ci arrivano insieme alla sede della Hit di Micocci. De Gregori, il suo personale gran giorno, lo vive insieme all'amico Giorgio Locascio. Vestiti come due specie di boscaioli folk, camicia quadri e stivali inzaccherati, i due si presentano presso la sede della casa discografica facendo scempio della moquette color crema che riveste il pavimento dello studio. Un bel modo di presentarsi. Per fortuna che sono bravi con la chitarra. È talmente bravo questo De Gregori, questo giovanissimo ragazzo biondo, magro e lungo con la chitarra, che gli arriva subito una proposta. Gli chiedono di fare una tournée in Ungheria organizzata dal Partito Comunista. È una specie di premio per essersi prestato a registrare uno speciale per la TV ungherese, un'inchiesta sull'Italia progressista o qualcosa del genere. Lui dovrebbe andarci con Locascio, ma i due come duo non funzionano. E poi Locascio si è appena fidanzato, non ha nessuna intenzione di mollare la sua dolce metà per andare a suonare in un paese lontano. Forse è meglio che al suo posto ci vada qualcun altro, e non qualcuno a caso. Ad accompagnare Francesco De Gregori nella sua prima tournée sarà proprio Antonello Venditti. Ce ne parla il giornalista Enrico De Regibus. Questo tour in Ungheria, in cui loro vengono accolti quasi come delle star, sicuramente consolida la forza del rapporto fra Venditti e De Gregori. E da lì nasce poi un disco fatto dai due artisti insieme, che si chiama Theodorus Campus, e che unisce le canzoni di uno e dell'altro. Al loro ritorno i magnifici destini di Francesco e Antonello si intrecciano ancora di più e lo fanno in uno studio di registrazione, lo studio 38 della Hit di Vincenzo Micocci. Nasce così Theorius Campus, disco che fonde le virtù canore e musicali di due amici che hanno iniziato insieme al folk studio di Trastevere e ora sono pronti per conquistare platee molto più vaste. Dolce signora che bruci i soldati che aspettavi, sono tutti alla tua porta che chiedono le chiavi. Stanotte puoi trovare sul mio letto di velluto gli specchi che hai spezzato e i figli che hai perduto. La fusione tra le voci di De Gregori e Venditti risulta armonica, praticamente perfetta. Theorius Campus è un disco in equilibrio fra i rispettivi talenti. C'è la chitarra di Francesco e il pianoforte di Antonello. C'è la voce squillante di uno e quella più delicata e sussurrata dell'altro. Ci sono soprattutto le canzoni che i due hanno scritto nel periodo della convivenza al folk studio, in quel clima fecondo di scambio artistico e umano. Theorius Campus, che poi è anche il nome del duo, è un disco che ad alcuni può sembrare poco omogeneo. In realtà è affascinante, decisamente nuovo sotto molti punti di vista. Venditti ha un piglio inconfondibile. Suona il pianoforte in maniera molto personale, ritmica, fisica. La sua voce poi è davvero inconfondibile. Forse lo stile di Venditti è addirittura soverchiante rispetto ai modi più lievi e rarefatti di De Gregori. Francesco è certamente meno estroverso, più ermetico, più difficile da comprendere a un primo ascolto. Incomincia ben presto a vivere l'accostamento con Antonello Venditti con un certo malcelato fastidio. Lui non era in un momento felicissimo. E ci fu un giornalista addirittura che in una critica scrisse di questo album, Theorius Campus, di Antonello Venditti, accompagnato dal suo chitarrista Francesco De Gregori. Credo che questo procurò, insomma, giustamente uno shock a Francesco. La voce che avete appena sentito è quella di un nuovo magnifico destino che bussa alla porta di Francesco proprio nel momento in cui ha bisogno di imprimere una svolta al suo percorso. Theorius Campus infatti non ha avuto un grande successo commerciale, tutt'altro. Non è riuscito a portare i due amici molto al di fuori del loro consueto raggio d'azione. Forse è ora di pensare a un modo per uscire definitivamente dall'anonimato artistico. Un disco solista è quello che ci vuole. E Edoardo De Angelis è l'uomo che può renderlo possibile. Edoardo De Angelis è già da qualche tempo un nome di tutto rispetto nel mondo della musica. È la metà del duo Edoardo Estelio, che ha già attirato l'attenzione di diversi discografici e di un fabbricante di hit da classifica come Edoardo Vianello. A Francesco è già capitato di incontrarlo in giro, qualche volta al folk studio, altre nei corridoi della RCA. Gli piace il suo stile, non si sente soverchiato dalla sua presenza come avveniva con quella decisamente più ingombrante di Venditti. È per questo che Francesco sceglie di chiamare proprio Edoardo come produttore e collaboratore agli arrangiamenti del suo disco, quello a cui sta meditando da tempo e con sempre maggiore insistenza. Ci mettemmo al lavoro in grande segreto, nonostante fossimo molto vicini al nostro discografico Vincenzo Micocci, che era praticamente nella stanza accanto. Il lavoro dovevano essere dei provini e poi in realtà diventò lentamente un album. I brani a cui Francesco ed Edoardo stanno lavorando confluiscono in Alice non lo sa, il primo disco solista di De Gregori. È una specie di soffio musicale, al contempo delicatissimo e persistente, perfettamente consono allo stile del personaggio De Gregori, così naturalmente regale, impeccabile, senza sforzo apparente. Francesco ha appena 22 anni, eppure l'eleganza che dimostra nel sapere affrontare certi temi con un approccio insieme letterario e genuino è incredibile. Certo, in questo suo primo tentativo le parole sono preminenti rispetto alla musica, che forse è ancora un po' immatura, ma quelle sue rime vagamente surreali e sospese non possono lasciare indifferenti, anche se non tutti la pensano così all'inizio. Quando una sera venne a cantarmi Alice, prima di presentarla al disco per l'estate, che avrebbe decretato il suo successo, io gli dissi: ma che è questo simbolismo, ma che è Alice, Cesare perduto nella pioggia? E lui mi ha detto: vedi Ernesto, non capisci proprio, insomma, non capisci. L'amico Ernesto Bassignano, compagno di mille avventure sul palco del Folk Studio, all'inizio non comprende la svolta simbolista delle canzoni di De Gregori, ma ben presto avrà modo, insieme a molti altri, di ricredersi. I magnifici destini. L'ombra di mio padre, due volte la mia. Lui camminava ed io correvo sopra il sentiero di aghi di pino. La montagna era verde, oltre quel monte il confine, oltre il confine chissà, oltre quel monte la casa di Hilde. Il magnifico destino di Francesco De Gregori, 20 anni e un mondo di parole nella testa, è quello di fare il cantautore. È il 1973 e si trova alla conferenza stampa per la presentazione del suo primo disco, Alice non lo sa. Il suo amico produttore e arrangiatore Edoardo De Angelis ha avuto un'idea. Ha comprato tante Barbie quanti sono i giornalisti presenti all'evento e le ha vestite tutte come Alice, la protagonista del singolo di lancio del disco, la canzone che è andata anche al disco per l'estate. Non è diventata un tormentone, però. Alice è arrivata addirittura ultima nella competizione. Un testo troppo difficile, troppo simbolista, per attirare le grandi platee ansiose di canticchiare il loro motivetto estivo scaccia pensieri. Però Alice, anche se arriva ultima, comincia a girare, nelle radio, nell'aria, sulle bocche di molti italiani. Parole criptiche, eppure allo stesso tempo così lievi. Parole poetiche. E forse la poesia è proprio quello di cui l'Italia intera ha bisogno in quegli anni grigi come il piombo. Tu quindi pensi che la gran parte della gente che sente i tuoi dischi, che ti conosce, capisce tutto quello che hai detto nelle canzoni? Sì, nei limiti in cui è possibile capire il prodotto del cervello di un proprio simile, il prodotto dell'anima di un proprio simile, quindi non è mai una comprensione puntuale, cioè non si può capire una mia canzone come si capisce un'equazione. Le poesie messe in musica da De Gregori non risultano immediatamente di facile comprensione. Persino autori come Tenco, Paoli e De André sono più comprensibili, mentre lui sembra davvero essere il re, anzi il principe, degli ermetici. E non è nemmeno troppo disposto a concedere se stesso ai giornalisti a spiegare loro le sue ragioni artistiche. Quel giorno, alla conferenza stampa per Alice non lo sa, se ne sta lì in mezzo ai cronisti con i pugni serrati e lo sguardo torvo, visibilmente infastidito. Lui è fatto così. Non gli piace spiegare troppo se stesso, gli sembra ridondante. Dopotutto a lui quello che scrive sembra così semplice, così immediato. Non ci sono dietro le sue parole chissà quali messaggi cifrati e nascosti. Basterebbe solo avere la pazienza di mettersi lì ad ascoltare con attenzione, senza accampare scuse, senza cercare altrove. Le stelle sono tante, milioni di milioni, la luce dei lampioni si riflette sulla strada lucida, seduto o non seduto faccio sempre la mia parte, con l'anima in riserva e il cuore che non parte. Però Giovanna io me la ricordo, ma è un ricordo che vale 10 lire e non c'è niente da capire. Francesco De Gregori non è più un artista che vive nell'anonimato. ha pubblicato già due dischi, uno con Antonello Venditti e uno da solista, e sta lavorando alacremente alla scrittura del terzo. Però non si può ancora dire che sia arrivato al grande pubblico. È andata meglio al suo amico Venditti, che con Roma Capoccia ha saputo conquistare il favore delle platee. Per Francesco non è ancora arrivato il momento di sfondare e non arriverà nemmeno nel 1974 con il terzo album, l'omonimo Francesco De Gregori. Eppure questo disco getta i semi in lui per il lavoro successivo, che sarà importantissimo, segnerà la sua vera consacrazione. Anche grazie a un magnifico incontro del destino, non certo casuale. L'odore della macchia, dei cespugli di mirto, è così forte che arriva fino in casa. Si mescola con il profumo della salsedine che sale ogni mattina dal mare azzurro che sta proprio lì a due passi. Francesco ama svegliarsi al mattino e sentire quel miscuglio di profumi tanto insoliti per lui, abituato alla vita di città. E che ci fa Francesco De Gregori a Portobello di Gallura in Sardegna? È stato invitato da un amico, uno che proprio come lui fa il cantautore. E non è proprio un collega a caso. È uno che Francesco ha sempre ammirato fin da quando era un timido ragazzino con la chitarra. L'ammira così tanto che una volta ha persino scritto una scherzosa parodia omaggio di un suo pezzo, La cacca di Piero. Potrà sembrare poco lusinghiero, ma invece basta conoscere un po' De Gregori per capire che si tratta di un autentico tributo. Lui era molto affascinato, secondo me, da me, per quelli che erano le mie derivazioni dal modo di scrivere americano e anglosassone. Lui era figlio del modo francese, troubadorico, no? E quindi niente, lui mi disse: io sto in Sardegna, vieni in Sardegna con me. A me mi sembrava di toccare il cielo con un dito, perché De André era il massimo a quel tempo per me. Era uno di quelli per cui io avevo deciso che avrei potuto fare il cantante, l'artista anch'io, diciamo. Il grande Fabrizio De André ha fiutato l'odore del talento da lontano. Sa che Francesco De Gregori, anche se ha poco più di 20 anni, è già una delle stelle più promettenti del firmamento musicale italiano. Insieme scrivono e suonano, compongono pezzi che poi rielaborano mentre altri semplicemente li getteranno via. Bevono e fumano, giocano a carte e a scacchi, vivono di musica e parole. De Gregori, durante il soggiorno sardo e grazie alla vicinanza del cantautore genovese, vede la sua vena creativa rifiorire un'ennesima volta, come ci racconta Cristiano, il figlio di De André. Una parte di Rimmer l'ha scritta proprio da me in Sardegna. Il risultato di quei giorni in riva al mare, riempiti dalla presenza e dalla vicinanza di uno dei più grandi cantautori viventi, è Rimmel, quarto disco di De Gregori, il terzo da solista, che esce all'inizio del 1975. Questo è l'album finalmente della sua piena e compiuta consacrazione. Ora le tue labbra puoi spedirle a un indirizzo nuovo, e la mia faccia sovrapporla a quella di chissà chi altro. Ancora i tuoi quattro assi vada bene di un colore solo, li puoi nascondere o giocare come vuoi, o farli rimanere buoni amici come noi. Qualcosa è cambiato con Rimmel. Di sicuro c'è una nuova impostazione nella stesura dei testi, con l'abbandono progressivo di certe derive troppo ermetiche e intellettuali in favore di un linguaggio più semplice, immediato. Forse persino un po' ruffiano per un duro e puro come è stato De Gregori fino a questo momento. Ma un ruffiano buono, di quelli che conquistano anche gli scettici. E c'è un'altra novità: ora la musica non è più soltanto un accessorio buono a veicolare il testo. Ora la musica la fa da padrona. In Rimmel ci sono venature folk, jazz e country, spiragli nuovissimi che finiranno con lo squarciare il precedente universo musicale De Gregoriano. Rimmel sarà l'LP più venduto del 1975 e resterà ben 60 settimane in classifica. Nessun cantautore, a dirla tutta, aveva mai venduto così tanto. Il successo di De Gregori ormai sembra inarrestabile. Il 1976 è l'anno di un nuovo album, il quarto in 4 anni. Buffalo Bill è un lavoro che trabocca creatività, invenzioni, estro. E siccome Francesco non solo è bravo, ma vende anche un sacco di dischi, si impone la necessità di fare una tournée che certamente riscuoterà una grande affluenza di pubblico. Sono ormai lontani i tempi in cui suonava sulle assi sgangherate del palcoscenico del Folk Studio davanti a una platea di manichini. Niente più localini, piazzette, teatrini. Arriva l'epoca dei palazzetti dello sport. Dovrebbe essere un trionfo, ma si rivela invece un disastro. Sì, quello fu per me personalmente il momento più brutto. Si trattò di un concerto a Milano dove, diciamo una cosa, che era un periodo in cui i concerti venivano comunque contestati violentemente, più o meno violentemente, ma insomma spesso molto violentemente, con tentativi di sfondare, di entrare, spesso riusciti, da parte di gruppi di giovani più o meno qualificati politicamente, a volte non qualificati affatto, ma comunque accodati a sigle politiche di vario tipo. Quindi sui concerti pesava questa minaccia continua che potessero finire male. E io ero appunto in un periodo di buon successo e dovevo fare questo concerto a Milano, che è una piazza importante. Ora lei mi chiede magari perché me l'hanno fatta questa storia del processo, perché di un processo si trattò. Io venni, come dire, finito il concerto, richiamato sul palco da un gruppo di esercitati che mi costrinsero a tornare sul palco e a rispondere a delle domande che oggi potremmo definire, come dire, provocatorie, tipo come ti senti tu che ti arricchisci alle spalle dei poveracci, quanti soldi guadagni, ma perché scrivi Buonanotte Fiorellino, Rimmel, a noi non ce ne frega niente, non sono canzoni del proletariato, ecco, questo tipo di argomentazione. Milano, 2 aprile 1976. È la seconda tappa della tournée di Francesco De Gregori, iniziata giusto il giorno prima in quel di Pavia. In quegli anni così difficili, dove è impossibile che la politica non si infili nelle pieghe di qualunque vicenda umana, anche le canzoni di De Gregori finiscono sotto il tiro incrociato dei facinorosi. Viene accusato di essere un venduto, di campare sulla pellaccia della povera gente. Il tutto prima che la polizia faccia irruzione nel palazzetto, lanciando i lacrimogeni. De Gregori, scioccato e attonito, giura che non metterà mai più piede su un palco e di fatto per i due anni seguenti fa vita ritirata e silenziosa. Il processo al Palalido è stato un evento decisamente traumatico, ma la voglia di scrivere per un cantautore non si può certo zittire a lungo. Ho detto che avrei smesso di fare questo mestiere quando in buona fede ho creduto che fosse vero che avrei smesso di fare questo mestiere. Poi in buona fede ho cambiato idea. Sono rientrato in studio e ho fatto un disco. Nel 1978, dopo un paio d'anni di assenza dal mondo della musica, De Gregori ritorna con un nuovo disco e persino con un concerto. A farlo lo convince un suo amico che in quegli anni è anche segretario della Federazione Giovanile Comunista Italiana, oltre che suo testimone di nozze. Si chiama Walter Veltroni ed è il magnifico responsabile del felice ritorno di De Gregori su un palcoscenico. I magnifici destini. Generale, dietro la collina ci sta la notte, crucca e assassina, e in mezzo al prato c'è una contadina, curva sul tramonto, sembra una bambina di 50 anni e di 5 figli, venuti al mondo come conigli, partiti al mondo come soldati e non ancora tornati. Francesco De Gregori ha vissuto due anni difficili, tra il 1976 e il 1978. Fortemente contestato durante un concerto al Palalido di Milano, ha deciso di ritirarsi dalle scene. Poi la musica, la voglia di fare musica, ha avuto la meglio. E meno male, altrimenti non avremmo mai potuto ascoltare le note struggenti che sentite in sottofondo, quelle della splendida Generale. E Francesco non torna solo a scrivere canzoni, ma sale anche di nuovo su un palcoscenico. A convincerlo è un suo grande amico, Walter Veltroni, che l'8 luglio del 1978 lo invita a esibirsi su un palco, quello dello Stadio Flaminio di Roma, per il primo grande concerto dopo oltre 27 mesi di assenza. Non si è più trovato di fronte a una grande platea, non dopo l'incidente di Milano, e non sarà affatto solo in questa impresa. E poi venne in mente di fare un concerto Flaminio e lì ci divertivo molto, si prevedevano 5.000 persone, ce n'erano 30.000, quindi... La voce che avete appena sentito è quella inconfondibile di Lucio Dalla. Il suo magnifico destino è quello di accompagnare l'amico Francesco nel suo glorioso percorso di ritorno alle scene. Forse Francesco, anche se non lo dà a vedere per quel suo modo di fare un po' distaccato, da principe, ha bisogno di un amico che lo sorregga in questo suo percorso di ritorno alla ribalta. Dopo il famoso concerto in luglio allo Stadio Flaminio, i due trascorrono parecchio tempo insieme. Canticchiano, strimpellano, si scambiano idee musicali e non. Un giorno, dopo un pranzo seguito dall'immancabile caffè, si mettono a suonare un motivetto in maniera quasi distratta, così scherzandoci su. Questo motivetto, naturalmente, diventerà una hit. Cosa fanno i marinai quando arrivano nel porto? Vanno a prendersi l'amore dentro al bar. Qualcuno è vivo per fortuna, qualcuno è morto, c'è una vedova da andare a visitare. Ma come fanno i marinai a riconoscere le stelle, sempre uguali, sempre quelle, all'equatore, al polo nord? Ma come fanno i marinai a baciarsi tra di loro e a rimanere veri uomini? Però Dalla e De Gregori insieme scrivono il pezzo Ma come fanno i marinai, che esce nel dicembre 1978. L'anno seguente li vede impegnati con la tournée denominata Banana Republic, dove i due ripetono l'esperienza dello Stadio Flaminio girando insieme per tutto il paese. Banana Republic segna il ritorno dell'Italia alla stagione dei grandi concerti, dopo il periodo delle contestazioni, inaugurando una rinnovata passione collettiva per la musica dal vivo. Un incontro, quello fra i due cantautori, che è stato davvero fondante. Ma l'incontro è stato prima umano e poi artistico, devo dire. Credo che la gente si diverta a vederci in due. Al ritorno dal tour di Banana Republic, certamente esaltato dall'accoglienza entusiasta di un paese intero, De Gregori scrive uno dei suoi pezzi più celebri. Viva l'Italia, presa a tradimento, l'Italia assassinata dai giornali e dal cemento, l'Italia con gli occhi asciutti nella notte scura. Viva l'Italia, l'Italia che non ha paura. Gli anni 70 per De Gregori si chiudono con le ovazioni in giro per tutta Italia. Un decennio intenso per lui, un decennio che ha assistito prima alla sua esplosione e poi alla sua consacrazione come cantautore. Gli anni 80 sono quelli della conferma definitiva, sono gli anni dell'album Titanic, delle targhe Tenco, degli ulteriori tributi di pubblico e critica. Sono gli anni anche di uno dei suoi pezzi più celebri. E con le mani, amore, per le mani ti prenderò. E senza dire parole nel mio cuore ti porterò. E non avrò paura se non sarò bella come vuoi tu. Ma voleremo in cielo in carne e ossa, non torneremo più. È notte. Un quotidiano gettato distrattamente su un tavolino se ne sta lì coi suoi titoli di cronaca più o meno strillati. Uno di questi recita «La donna cannone fugge col cassiere». Un cantautore, un sognatore, come De Gregori, non può certo lasciare lì quel titolo come se niente fosse. E allora che cosa fa? Imbastisce, a partire da quella breve notizia, la storia surreale di una donna del circo che fluttua tra le stelle, lontana dalle tristi contingenze del mondo. Un successo strepitoso. Un'ulteriore conferma. Come se ce ne fosse stato bisogno. La costante consacrazione di De Gregori come uno dei massimi cantautori italiani, intanto, continua a passare attraverso una serie pressoché infinita di collaborazioni. Tra le più fortunate c'è certamente quella con Adelmo Fornaciari, in arte Zucchero, al quale Francesco regala la splendida Diamante. A ideale coronamento del suo lungo percorso, De Gregori torna spesso a collaborare con magnifici compagni con cui ha avuto modo di condividere il suo viaggio di artista. Nel 1993 incide Il bandito e il campione, scritta dal fratello Luigi, che per primo l'aveva portato sullo sgangherato palco del Folk Studio. Nel nuovo millennio torna a lavorare sia con Antonello Venditti che con Lucio Dalla, compagni di molte avventure sia discografiche che dal vivo. E a proposito di live, De Gregori incide parecchi dischi dal vivo, segno lampante del pieno, effettivo superamento del trauma dopo gli eventi del Palalido. Suonare dal vivo da solo insieme ad altri musicisti, proporre canzoni nuove e soprattutto riproporre canzoni vecchie è una pratica quasi catartica per lui. Stesse canzoni cantate 10 anni fa, oggi suonano diversamente nella mia testa mentre le canto. Io mi auguro che questa differenza sia percepita anche dal pubblico, insomma, trasmettere questa maturazione, invecchiamento, crescita, no? De Gregori ha cominciato a fare il cantautore quando era solo un ragazzo di 20 anni. È cresciuto, è invecchiato, e ha imparato a stare al mondo insieme al suo pubblico e alle sue canzoni. E come dice benissimo lui stesso, quello che non sa, lo sa cantare. Lo vedi tu com'è? Bisogna fare e disfare continuamente, malamente, con amore, battere e levare. Stasera guardo questa strada e non lo so dove mi tocca andare. Lo vedi, siamo come cani senza collare.